Buonasera a tutti e a tutte, siete all'ascolto, che cannone la musica, siete all'ascolto di transizionedifase.org e oggi finalmente ho il grande onore e il privilegio e l'ardire di presentarvi quelle che vi avevo già annunciato numerose volte, ma ebbene sì, diciamo che la nostra vita è abbastanza un delirio, ce lo possiamo dire, e quindi ho l'onore di annunciarvi le co-conduttrici di questa trasmissione di Salute e Felicità, le conduttrici Co-Co-Co, in quanto ogni quando voglio le caccio. Detto che era indeterminato! Sì, indeterminato nel senso che, come, vabbè, poi parleremo anche della cooperativa Gaia, di For To Be Alive, di che cosa vuol dire contratto a tempo indeterminato col Comune di Roma, che poi è un contratto dei 2 minuti. In ogni caso, non eccediamo già nelle troppe chiacchiere. Quanto sei lungo? Già! Dai, ma non ho detto niente, va bene. Comunque ho il piacere di avere qui con me le mie conduttrici, quindi presentatevi adesso. Sì, faccio sì con la testa. Presentati. Ciao, io sono Psicovale. Psicovale. Sono venuta nella casa di Frodo. Sì, in redazione. In redazione, sì. Nella redazione di Transizioni di Fase, che sì, non l'avevo mai vista. Una molto radio bene, nuova, è fantastica. Vero. mi ha accolto una fantastica boccia di vino bianco. Bene. Non diciamo la marca, così no. Brava, non facciamo pubblicità. E tartine col gorgonzola, tutte le domeniche dalle ore 21 su TDF. Sentite gli effetti su un ometto tipico. E mo vedrete che cosa succede in altra mezz'oretta, 40 qua minuti. Qua già si singhiozza e le tartine sono finite, quindi se qualcuno passasse nei pressi della sede di TDF ci portasse una pizza o un piatto di pasta. Addirittura, c'hanno fame. Va bene, presentiamo anche l'altra adesso, va bene. E che cazzo dico? Vabbè, di come ti chiami, di quello che vuoi. È timida, vi giuro. Però è una grande conduttrice. Oh, ci sono. Mi dicono di alzare un pochettino il volume del microfono di voi che non siete abituate a parlare mentre io sono un grande. E quindi vai, presentati, dici un po'. Ciao, io sono Cristina e... preparo le tartine, sono quella che prepara le tartine, che soprattutto. Ok, che l'amichetta sua se magna, tra l'altro. E ci sentiamo dopo. Dopo. Va bene, dopo questi primi 10 minuti di delirio, allora vi lascio. Adesso proveremo anche a aggiustare un attimino i volumi dei microfoni, perché dicono che è basso. Dovete parlare forte. Non vi preoccupate per la musica, perché? Sarà diverso da domenica scorsa. Siamo in 3 dentro questa stanza. E il vecchio carrozzone parcheggiato lo muteremo in un fantastico pulmino rainbow. Oh yeah. Pulmino rainbow? Ah, finisce così la frase. C'è la tartina in bocca. Niente. Andiamo bene. Va bene, vi faccio ascoltare questo gruppo che ho ascoltato e riascoltato e riascoltato. È un gruppo nuovo e insomma mi ha fatto impazzire in questi giorni, quindi ve lo faccio sentire. L'hai detto pure domenica scorsa? No, loro si chiamano merda. Ma te con chi stai? Che giochi con gli altri? Ma posso salutare mio fratello? Certo. Ciao fratello, che sicuramente l'ascolto. Prima di farvi ascoltare i Sound of Rum, e vi dico che se volete potete entrare in chat dal nostro sito. Lo dovete assolutamente fare. Quando vi chiede dovete applicare questa applicazione, applicatela. Mamma mia, questa. Ma l'hai invitata. Va bene, dovete andare su transizionedifase.org e cliccare su chat e potete venire a chiacchierare con noi. Allora va bene, chatta con noi. Basta chiacchiere, vi lascio a un po' di buona musica, un buon ascolto. Buone tartine a tutte. Un buon ascolto a tutti e a tutte. Sta maledetta. Time used to move in a ring, it still does, day after day after day. There don't seem to be no way out of this ring, every day is the same. Same as the last, and as going past too fast. When the glass is frosted, the mask will slip and I slip. Ring of revolves ran around unresolved, and the drugs made my memories fast. Try to control my own thoughts, solitary figure, walk around in circles, watching the faces contort. Friends become monsters, slippery shadows who speak the same tongue, will beat the same drum. Ring of revolves ran around unresolved, for the sting of the cold deep inside as I stroll. Ring of revolves, every action's foretold, I've been told. Smoke that I inhale with gold at my mouth in a ring, thick grey rings of smoke. Time used to move in the ring, unprovoked. Sound of the truth in a thing is the use in the thing, and I'm reminded of newness in the spring. Sound of the truth in a thing, use in a thing, what use is a ring made of smoke? Sound of the truth in a thing is the use in the thing, and time it still moves in a ring, because every day is slow, slow. Every night get faster, faster. Ask the moon a question and I receive this midnight answer in the branches of a rope. My heart broke, you're broken out of pain, it's fate, fate. So don't talk yourself that you're happy if you ain't, but every day is the same, no. Every day is slow, slow. Every night get faster, faster. Look out, ask the moon a question, yes, and I receive this midnight answer in the branches of a rope. My heart broke, but now the pain is fate. So don't tell yourself you are happy if you ain't. Where do you fly? Where do you run? Hit it at the end as begun. I'm seeing devils in front of my eyes, and they get beckoning and attention. Many white souls have been friending, but I'm afraid. Rain clouds, pregnant with the rain. Seen the same every day, I know it's up to us to change. I don't doubt that you don't want this, but what if it gets more than we think? Hold on the brink of a gate, green precipice, hesitant derelict, stole from the city of devilish. People never stop asking where the treasure is, and I'm like, look, everything is relative, man. Whatever the case never disfeeding. Still in a slight loss of what could have been in the trial, saying what comes next. How long before the last sunset sets over our heads, heads looking for the wife once dried up. Gotta stay alive, strong, never been scared of my neighbor. Stand up, so swing out with my saber against the invader. Look, invasion of privacy, not much left that inspires me here. Gotta come close, come near, one fear, one meekness. Some fear their weakness, we don't. Some ready to surrender, we won't. One thing for sure, gotta be bold. We won't, not free. Spilled its guts, gently open and it shuts. Allora, ben tornate, ben trovate, onorati di essere ancora qui con voi. Allora, che dire, questo inizio slow è anche perché il brano dopo, che è il primo brano che le mie conduttrici co-co-co... Ma sarei tu co-co-co? Ecco, co-co-co-co? No, c'è stai pure te co-co-co, stai serena. Le mie conduttrici co-co, il primo brano che hanno scelto, che vogliono mettere, è chiaramente un brano dei Depeche Mode. E quindi adesso, no, chiaramente, insomma, è un qua fanno subito gesti. Avete chiesto chiaramente, niente, mi redarguiscono già queste co-co-co-co conduttrici. E allora, niente, ve lo faccio ascoltare. E prima vi ricordo appunto che transizionedifase.org è una piccola realtà, un piccolo contenitore di tante trasmissioni e di tante idee, che è un progetto open source e anche free software, e il nostro codice è completamente aperto a qualunque vostra idea e iniziativa, quindi se vi va di collaborare con noi basta che scriviate a info@transizionedifase.org. Vi lasciamo un altro po' di musica. Aspetta, e prima di lasciarvi alla musica lanciamo il primo concorso della serata. Vai, qual è questo concorso? Allora, ieri è successa una cosa molto simpatica. Quale? Nel nostro paese. Che è successo? Nel nostro paese sono iniziati i saldi! I saldi! Di inizio stagione, perché esatto. Si stava a morire dal freddo. Cioè, è finalmente arrivato l'inverno, sì. E iniziano i soldi dei saldi. Sì. Niente, se entrate in chat su www.transizionedifase.org. Abbiamo già detto l'URL. Sì, stai attenta, per favore. http://. Entrate in chat e potete proporre un brano. Sì. Di commento alla giornata di ieri e alle dimissioni di Sua Maestà, un brano che non sia prettamente politico, diciamo, perché ma? Se no sarebbe troppo semplice. Tipo no, 99 posti. Esatto, che no, bene, però, Banda no. Bardot, no, Contessa, niente. No, De André, insomma. Neanche Bella Ciao, che gli neanche vogliamo Bella, bene ciao, pure, Bella no. Ciao. Vedo un computer che sta per volare a terra, quindi vi invito a fare particolarmente attenzione. Benissimo, quindi suggerisci in chat il brano della Liberazione che non sia particolarmente... La solita pippa. Il vostro microfono credo non si senta. Controlla bene che si stia sentendo quel microfono. E invece non si sta sentendo quel microfono. Quindi va bene, vi lascio un altro pochettino di musica. Il brano che hanno scelto le nostre simpatiche amichette è Wrong dei Depeche Mode. E allora un buon ascolto a tutti e a tutte. Wrong. Wrong. Wrong. Wrong. I was born with the wrong sign, in the wrong ass, with the wrong ascendancy. I took the wrong road that led to the wrong tendencies. I was in the wrong place at the wrong time, for the wrong reason and the wrong ride, on the wrong day, at the wrong week. I used the wrong method with the wrong technique. Dopo devi stare calma, ricomincia, mamma, le dobbiamo proprio educare queste simpatiche. Ho capito, te guardi il microfono come uno stoccafisso. Che devo fare? Vai, a cannone. E abbiamo appena sentito il brano dei Depeche Mode, Wrong, e adesso si dedicava fra Ben Harper, Jeff Buckley e Missy Gray. Missy Gray, mamma mia. Missy Gray. No, non è quella roba lì, eh. Che fai del lavoro, scusami te? Faccio tante cose. Faccio tante belle... Tra le quali vi aspetto domenica prossima a San Lorenzo. No, lo spottino! Mi faccio lo spottino, tiè. Vi aspetto domenica prossima al Baffo della Gioconda per una serata molto happy dalle ore 21 a San Lorenzo. Sì? Cosa? E, niente, ci sarà un po' di musica, un po' di divertimento e faremo la diretta dei TDF dal Baffo della Gioconda domenica prossima. Ah sì? Assolutamente, fra vino e amaro. No, domenica prossima sarà semplicemente una serata di ballo tranquilla, pub, vi potete venire a bere una birra e a dicembre una fantastica serata karaoke. Che noi organizzeremo mio. Con Transizione di Fase. Vabbè. Faremo un karaoke online dalla chat di una radio web indipendente. Basta che ci chiamano su Skype, infatti. Ma parliamo di queste serie. Parliamo di piacere. Ecco, brava, brava. Basta. Però questa è una cosa seria. Sappiate che abbiamo anche un contatto Skype come Transizione di Fase, che appunto ci trovate come Transizione di Fase su Skype. E quindi se ci volete scrivere, ci potete scrivere anche lì. Se non volete venire in chat o se avete problemi con il vostro browser. Ma in ogni caso, E quindi magari un giorno facciamo un karaoke via Skype, quella domenica lì, vedremo che cosa potrebbe succedere. A Fattoni ci scrivono in chat, transizionidifase.org, sono le 21:28 e questo è Saluto e Felicità. E va in onda tutte le domeniche dalle 21 alle 3 su transizionidifase.org. Per l'appunto il prossimo... Dalle 21 alle 23, no, che alle 3, se ne erano preoccupate, ste conduttrici, mamma mia. Questo brano si chiama You Know I'm No Good, è lei che la canta. E voi lo sapete bene, You Know I'm No Good, e può essere che la persona, beh, insomma, è una dedica silente, perché se non ci sta ascoltando non ci squillerà il telefonino, e quindi male. Un buon ascolto a tutte e a tutti. Beh, volete dire qualcosa sicuramente, dai, ditelo ora, vai. Ah, merda. Meet you downstairs in the bar and her, your rolled up sleeves in your skull t-shirt. You say, why did you do with him today? And sniff me out like I was Tanqueray. Cause you're my fella, my guy. Hand me your Stella and fly. By the time I'm out the door, you tear man down like Roger Moore. I cheated myself like I knew I would. I told you I was troubled. You know that I'm no good. Upstairs in bed with my ex-boy. He's in a place, but your lips as I soak my feet, and then you know this liquor carpet burn. My stomach drop and my guts turn. You shrug and it's the worst to truly stuck the knife ever. I cheated myself like I knew. You know that I'm no good. E allora eccoci tornati di nuovo in onda, facciamo di nuovo questo simpatico prova del microfono perché credo che ci siamo, vedi un po'. Mi senti? Mi sentite? Io ti sento da qui perché siamo più o meno negli stessi metratura quadra. E allora innanzitutto vi ricordiamo di venire in chat, salutiamo O Bella Fausti che è appena entrata. Ciao, così Fausti. A gamba tesa. E quindi niente, mentre in query, cioè nella parte un po' più privata della chat, mi arrivano, continuano ad arrivare afattoni con i lunghe. Niente, ecco qua, Bella Fausti è caduta e si è riconnessa. In ogni caso è arrivato il momento per noi di della grande news del momento. Attenzione, vai. In diretta vai. Abbiamo una importante notizia che colpirà tutti e tutte noi. Sì? Sconvolgente. Sì? Di quello è? Che sta succedendo adesso nel mondo. Ah sì? Vai, dicelo. Tremate. Le streghe sono tornate. Assolutamente, attenzione. Quello sempre. Ancora. Ritornano Kermit, Picchi e Gonzo, i Muppet al cinema. 12 anni dopo, finalmente ci possiamo vedere in un fantastico film. Wow, ma in 3D? Sicuramente. In Blu-ray? In Blu-ray. E in Bluetooth? In HD addirittura. In HD del Bluetooth e del Blu-ray potremo vedere i Muppet al cinema. Ma che figo, ma non è in MD? In MD sì, o in MDA? in MDA? Va bene, quindi dopo questa simpatica... Abbiamo una domanda tecnica per il nostro Attenzione. Regista. Vai. Ho un Mac, va bene uguale con Java? Che cosa? Posso entrare in chat? Certamente, allora dovete sapere che le istruzioni di questa chat sono un po' complicate. Esatto. Ma non è che sono complicate perché noi siamo degli stronzi, ma in realtà sono un po' complicate perché lo script è una roba di programmazione un po' complicata. Però ogni tanto il nostro player l'abbiamo fatto noi, quindi non abbiamo chiesto né alla Microsoft né alla Java né a nessuno. Vabbè, siete fichi. Sì, chiaramente. Né a nessuno di dire che il nostro codice è valido e buono. Quindi praticamente ti fa una cifra di domande perché ti dice: ma tu sei sicuro? Questo contenuto non è affidabile. Invece siamo noi quattro stronzi di transizione di fase. Questo contenuto non è affidabile, perché non lo blocchi? E tu gli dici: no, non lo voglio bloccare. E poi ti dice di nuovo: ma sei sicuro che non lo vuoi bloccare? E tu gli devi dire sì, perché lì ti ha fatto la domanda come a referendum. Sei sicuro di non volere che venga l'aborto ripristinato secondo la legge? E tu devi avere la capacità di capire qual è la vera risposta tra quelle che vorresti dare. Perché... E qual era la risposta proprio? Ah no, la risposta del referendum del 1980 era non lo so. Era 78. Amore. Ma non c'erano i mondiali in Messico nel 78? Come era? Va bene, in ogni caso tocca stare davvero attenti al player, così come tocca stare attenti ai referendum, a parte quelli che ci facciamo noi da soli, e quindi come quello dell'acqua e del nucleare, lì era abbastanza chiaro. Vuoi privatizzare l'acqua? No. Vuoi rendere il servizio pubblico? Sì. Era facile, insomma. No. Erano quattro sì, però era la mai domanda... votato soprattutto. Mamma mia, che fattone queste qui. Ho votato in Burkina Faso. No, è vero, ho votato davvero, ma in ogni caso siamo arrivati alla fase della transizione di fase. La capirete subito di qual è l'argomento di cui stiamo trattando, quindi vi lasciamo un attimino di calma e pace e poi ci apriremo. Ci siamo? Fai sì con la testa, fai no con la testa. Ci siamo, un buon ascolto a tutte e a tutti. Sì o no, te ne vai o no, te ne vai sì o no, così più facci scenare. Facci cenare, oh Dio, facci cenare. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. Allora, signore e signori, ci siamo. Come ma dicono... c'è qualcosa da festeggiare? C'è qualcosa da festeggiare, la domanda. E allora parte anche in questa settimana la rubrica Sampli the Best, signore e signori. Allora noi ritorniamo fra un poco. È il momento di sciogliere le trecce ai cavalli. Ballano. E le sue gambe eleganti corrono. Corrono. Mamma mia, la BC, davvero, davvero. Ecco qua, ci siamo. È lei, è arrivata. E ci siamo, signore e signori. E un saluto a Vicky che è riuscita a entrare in chat. La cazzata più grande della settimana su transizionedifase.org. Anche la vaginata più grande c'è su transizionedifase.org. Oggi di fronte a una sfida cruciale che mette in gioco il nostro futuro. E sono convinto che solo uniti possiamo vincerla, solo mettendo da parte invidia e rivori, solo impegnandoci a lavorare tutto insieme per il bene dell'Italia. Noi l'abbiamo sempre fatto per 18 anni e continueremo a farlo con impegno anche maggiore. Ho rassegnato le dimissioni da Presidente del Consiglio. E dai, che te frischi. Per evitare all'Italia un nuovo attacco dalla speculazione finanziaria. L'ho fatto senza essere mai stato sfiduciato dal Parlamento. Anzi, avendo ottenuto più volte la fiducia della Camera e del Senato, dove possiamo contare tuttora sulla maggioranza assoluta. Ringrazio comunque gli italiani. Grazie per l'affetto, per la forza che ci avete trasmesso e che ci hanno permesso di raggiungere molti degli obiettivi che ci eravamo prefissi fin dal 1994, dal giorno in cui annunciai la mia discesa in campo. Quel giorno ha cambiato la storia dell'Italia. Al credo politico che pronunciai allora non sono mai venuto meno. Qui c'è una operazione d'amore per l'Italia. Sì, l'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze, i miei orizzonti. Qui ho imparato da mio padre e dalla vita il mio mestiere di imprenditore. Qui ho appreso la passione per la libertà. Non cambio una virgola di quelle parole. Quell'amore e quella passione sono immutati. infatti ho sbagliato, va bene. Speak the language of love like you know what it means. And it can't be wrong. Take my heart and make it strong. Simply the best. E quindi, signore e signori, ci siamo! Transizione di fase, solo per voi, il nostro migliore ospite della serata... Chi è? Chi è? No, adesso da accogli, chi è? Non c'è, perché ebbene sì, abbassiamo un pochettino il volume così voi magari ci sentite meglio. È successo, signore e signori, si è dimesso. Il nostro simpaticone presidente del Consiglio si è dimesso. Io non ho capito delle cose che ha detto. Tra i liquori, tipo quella dei liquori. Allora, innanzitutto ci ha detto di mettere da parte i liquori. Che no, già fuori erano tutti con lo spumante a cannone. Mettiamo da parte i liquori. No, come mettiamo da parte i liquori? No. E quindi è successo, è successa questa cosa. Quindi, Ma forse ha detto i limoni. I limoni. Ha detto i limoni. Erano i rigori. I livori erano. Ah, no, forse mettiamo da parte i rigori, quelli di Roberto Baggio sbagliati nel 94. Quelli la che palla si era comprato. Ecco, la palla schizzata via. Allora, che è successo in questa settimana? Dai, diteci che cosa è successo questa settimana. No, io continuo a non capire quello che ha detto, a parte i rigori dei liquori. Ecco. Poi ha detto che lui ha le radici. Sì. Perché il padre. Aspetta, in perché Italia. Vai, dici un po', un po', perché anch'io ho delle radici, adesso mi sa che gliele tiriamo fuori. Comunque dicevi. Pensava alla crioterapia, cioè? Che è un ottimo strumento per togliere le radici delle infezioni cutanee. Ma come ti è venuto in mente di sta cosa in radio, scusami? No, nel senso, dicevo, alle radici forse per questo gli vengono ancora i capelli fuori a 87 anni. Secondo me può essere per questo il motivo, perché se non ce lo spiega. Però abbiamo una cosa fondamentale da dire e quindi gli vogliamo fare sapere che anche noi abbiamo delle radici e poi ricominciamo subito, eh? Loro mi guardano un po' stupefatte, ma è il bello della diretta. Ecco, comunque abbiamo le radici anche noi, attenzione. S'approcio, beh, perché c'ho la ridì? Non vedo che problema c'è, mettiamola così. S'approcio, beh, perché non se può fa? Non è un problema mio se temi la diversità. Diciamo che a sto mondo ognuno è libero di fare della propria vita tutto quello che gli pare. E se non sei d'accordo, caro mio, sono spiacente, ma non cambia proprio niente. E quindi anche noi, signore e signori, abbiamo... Opla! Basta, a canna, niente, non gliela fa. Allora, non so bene, si sente probabilmente un rumore all'altro microfono a quanto dice questa, quindi fate attenzione a questo. Ah, bene, ok. E quindi a quanto pare mi dovreste... Che DJ, attenzione, ci fanno i complimenti, vi ricordo di venire su transizionedifase.org. Ebbene sì, quindi leviamo la musica di sottofondo perché qui si parla di un argomento fondamentale. No, non è quello l'argomento fondamentale. L'argomento fondamentale, a quanto pare, è questa roba qui. Cioè, il governo di questo paese è cambiato. Il presidente del Consiglio che avevamo qualche giorno fa non ci è più, non vi è più, diciamo. E al posto suo abbiamo democraticamente eletto, mediante elezioni, uno nuovo, vero? No. Come no? No. Aspetta. No, scusate, io sono andato al seggio e ho votato ieri. Sì, sono andato. Ah, era il referendum quello di prima che bisognava votare no, però bisognava votare sì. E quindi come. Scusa, mi puoi spiegare com'è che abbiamo un nuovo presidente del Consiglio? Da dove. Cioè, che ne so. Aspetta, appicciolo. Ai ai ai. Allora. No, mi sa che devi muovere di nuovo quel simpatico gavetto che abbiamo. Oppure puoi venire a parlare qui da me. E mo nel frattempo quella lì ce la fa. Quindi com'è questa faccenda? Non lo so. Vuoi fare? Oh. Diciamo che abbiamo un nuovo presidente del consiglio. E quando, come dire, il vecchio presidente viene sfiduciato, nonché lui dica che questa cosa non è mai avvenuta, però di fatto non ha più, come dire, la maggioranza in Parlamento, si crea il governo tecnico. Cioè c'è un rimpasto, una sorta di antipasto all'italiana. Beh, quello è buono. Dipende. A 12 euro però, tanto alto, due fettine di carne e così, insomma. Un antipasto all'italiana con una serie di personaggi pubblici che teoricamente ora possono legiferare sulle nostre teste. Quindi la Carrà è diventata presidente? Sì. Woohoo! Ma no. Pare che si chiama Monti. Io voglio un microfono, ma io mi chiedo perché dobbiamo scegliere tra Mari o Monti. Noi vogliamo Mari e Monti, non vogliamo né Mari o Monti, non vogliamo scegliere perché vogliamo Mari e Monti. E invece ci siamo trovati questo simpaticone qui. Io la volevo dire sta cosa, nel senso, ma secondo voi un economista, presidente della Bocconi, che ha deciso e che ha proposto come altri consiglieri, altri ministri del nostro governo, altra gente che ancora l'ha proposta e non, diciamo, non sono stati eletti, ma a quanto pare sono questi nomi: il segretario della Bocconi, sua cugina che studia alla Bocconi, un altro della normale, cioè roba pubblica, università pubblica, innanzitutto niente, e poi economia proprio. Cioè l'unica cosa che, scusatemi, probabilmente non mi si sente bene, l'unica cosa che si sente sostanzialmente è proprio a cannone questa roba qui, cioè l'economia ci deve governare, noi dobbiamo sostanzialmente sottostare a quelle che sono delle regole economiche, e quindi anche se non abbiamo votato praticamente nessuna di questa gente ivi presente, e allora comunque ha deciso Napolitano, che se non mi ricordo, scusami, che legge aveva fatto? Napolitano aveva fatto una legge sulla Turchia, com'era la Turchia? La Turco-Napolitano! Ah, ecco chi era il presidente della Repubblica, ecco che cosa aveva fatto! Ecco i grandi meriti del nostro presidente della Repubblica, una legge contro l'immigrazione! È bravo Napolitano, e infatti in Europa si fidano di lui, e ci credo che si fiderò di lui, ha fatto della roba che è completamente fuori di testa, e quindi chiaramente il risultato è stato che questo simpaticone adesso ha deciso di appiopparci quella che è questo nuovo governo di Mari o Monti, che noi vorremmo di nuovo Mari e Monti, ma non c'è assolutamente niente da fare. E quindi a quanto pare nei prossimi mesi, diciamo la riflessione che ci facevamo prima qui in redazione, nei prossimi mesi la domanda era sostanzialmente questa qui, cioè che cosa succederà in questo paese nei prossimi mesi, nel momento in cui sostanzialmente quello che è stato fatto fino adesso è, come dire, cioè la devastazione e il saccheggio di un paese, e adesso manco quello che già prima qualcuno l'aveva votato a sto imbecille, adesso manco più quello proprio. Quindi voglio dire, che cosa succederà in questo momento in questo paese? Ce lo dice la nostra simpatica Cristina. Io che ne so. Che ne so, andiamo in piazza. Dove andiamo? In piazza. A fa che? Che ne so, digli qualcosa a questi. Chi? A Mari o a Monti? Perché sono due, non è uno solo, sono due. E glielo diciamo a tutti e due, va scusa. Bene, glielo diremo a tutti e due senza alcun dubbio, sì, va bene. Sì, ma che gli diciamo? Che ne so, gli chiediamo, secondo me potremmo dirgli questa cosa qui, che giustamente la nostra simpatica Valletta ci aveva appena, diciamo, proposto. Allora forse, che ne so, gliela mettiamo? E gliela mettiamo, vai. Gliela mettiamo, allora. E allora vai, proponila annunciala, presentala. Lo so, mentre parlavate avevo un vagato senso di disperazione che entrava nella mia anima. Ma perché, scusami? Ma non sei contenta di Mario Monti? Sì, questa è la canzone che ho pensando a Mario Monti. A Mario Monti? Sì. La taglieremo. No, la taglieremo? Non lo so, però mandala, vai. La taglieremmo. Forse, forse che fu. Un buon ascolto a tutte e a tutti. A Mario Monti! She leads a lonely life. She leads a lonely life. When she woke up late in the morning light, and the day had just begun, she opened up her eyes and thought, morning. It's not a day for what? It's a day for catching time. Just lying on the beach and having fun. She's going to get you. All that she wants is another baby. She's gone tomorrow, boy. All that she wants is another baby. Yeah. All that she wants is another baby. She's gone tomorrow, boy. All that she wants is another baby. Proprio una soggetta comunque. Allora, tutto questo che voi magari non vi spiegate era per testimoniarvi la confusione, la grossa confusione che c'è in questo paese, signore e signori, perché mentre noi fediamo via questa musichetta di sottofondo, avete ascoltato tutto quello che lei vuole in una versione un po' macaronica di traduzione dall'inglese All That She Wants, cioè come vuole lei. Praticamente ci siamo prostrati alla volontà di uno, prostata, ci siamo sostanzialmente stati così, diciamo che vabbè, un colpo di stato dove quelli che abbiamo... cioè non abbiamo votato, però una persona che non abbiamo votato, cioè Napolitano, perché in realtà mi sa che Napolitano non l'abbiamo votato noi? No. E te l'hai votato? No, non si può votare Napolitano, è il presidente della Repubblica, non della Repubblica. Del Milan? Del Milan? No, quello è Silvio Berlusconi. Ah, cazzo, ma faccio sempre un sacco di confusione come quelli che vanno a Chi vuole essere milionario. Dopodiché, e quindi tutto quello che lei vuole, successivamente Everybody, Rhythm of the Night. Perché questo cambio? Perché c'è confusione. E la gente è contenta sarà che Berlusconi... perché ti amo. La gente è in tensione. che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino. Io non la sai più. Se non mi vuoi bene, sarà perché ti amo. Insomma, abbiamo bevuto un pochettino qui, perché sì, un po' c'è da bere. Senza dubbio tutti quanti siamo contenti che quel despota maledetto, amico di Gheddafi, amico di Saddam, tutti e due morti efferatamente. Stranamente. Stranamente. Misteriosamente. Ecco, anche un po' quantunque mente chi che sia se n'è andato. Però voglio dire, quello che è arrivato, ma chi è? Ma perché la gente festeggiava in realtà? Cioè, la domanda che c'è da porsi realmente, va bene, festeggiamo tutti che sarà andato Berlusconi, ma non abbiamo potuto votare un altro. E soprattutto, a parte il discorso che quale altro, perché se devo votare Di Pietro che dice che i froci sono tutti dei pezzi de merda o che no che ha detto pervertiti o chissà chi che sia o Bersani che pensa che comunque i migranti sono degli stronzi, no, pervertiti, no, pure quelli no, però insomma maledetti pure loro e vengono qui a rubarci il lavoro, allora tanto non ci piace, mi pare abbastanza chiaro. Quindi per quale motivo siamo così contenti di avere un nuovo presidente del Consiglio che non abbiamo votato? Ce lo spieghi lei, dottoressa, ce lo spieghi lei. Io non sono contenta. Come non mi sei contenta? Mi dispiace. Ma sono preoccupata. Da cosa? Secondo lei da che cosa lei è preoccupata? Beh, dai mari e dai monti. Dai mari e dai monti. E dalle alluvioni. Mamma mia, che continuano a imperversare in questo paese. Ma secondo te adesso uno che arriva e dice che il suo programma è riforma delle pensioni e patrimoniale, che cosa farà in questo paese? Più probabilmente aiuto. Riforma delle pensioni o patrimoniale, secondo te? Beh, scommettiamo? Scommettiamo 100 euro. Pochi. Un milione di euro. Riforma delle pensioni, un milione di euro. Mamma mia, signore e signori. La domanda quindi davvero è questa. Noi la diciamo un po' ubriachelli perché ci va e siamo così. E salute e felicità. È una trasmissione un po' così. Ma la domanda è davvero. Posso fare un ringraziamento? Solo se lo fai dentro al microfono e non da là sotto. Volevo ringraziare Gabbo, no, che quella sera ha portato tante birre nel frigo della sede TDDF. Ah, DDD? Vedete com'è? E il mio amico d'amore, e sarà il nome di ogni città. Grazie Gabbo. Questo ringraziamento a Gabbo è chiaramente perché Gabbo in chat, e vi ricordiamo che potete entrare in chat dal sito transizionedifase.org. Non so perché abbiamo ringraziato Gabbo in questo momento, in ogni caso. Vabbè, perché fa show. Ah, fascista, ho detto fasci, come faci? Fa show. No, la domanda davvero pesante è, signore e signori, perché siamo contenti del fatto che questa persona se n'è andato e è arrivata una persona che non abbiamo votato? Cioè, non va bene, come sti cazzi? No, va bene che se n'è andato quello, però che cazzo, no, cioè? No, perché se n'è andato non rovesciato da noi, soprattutto. Chiaramente, non è che dici l'abbiamo mandato via con una manifestazione imperiale, no, e lui ha detto vabbè, va. Ieri c'è stata una manifestazione di 150 milioni di persone. Dove? Eravamo tantissimi, siamo una squadra. Eravamo tantissimi! Siamo una squadra fortissima. Qual era la manifestazione di 150 Quella milioni? Quella che abbiamo fatto ieri, auto-organizzata, che ha attraversato tutte le strade di Roma nel postmodernismo queer della società vetero-patriarcale del vino est-est. Sì. E dopo, cioè, in realtà la questione è che non l'abbiamo cacciato noi, riga. È che qui là sono tanto degli stronzi e tanto dei voltagabbana e dei cambia bandiera, che a un certo punto gli hanno detto vabbè, mi sa che tu sei un cavallo un po' perdentuccello. Siccome io le prossime elezioni voglio comunque stare seduto in quella minchia di poltrona, e allora mi sa che faccio così, come la Carlucci. Vado all'UDC. Wow! Non so quale delle 96 sorelle Carlucci, signore e signori. Forse era Milli. Milli? Carlucci. Ma non era ancora tronimato anche Milli? Milli. Io non me... Lì, un giorno dopo l'altro. Gabriella. Gabriella. Milli invece è quella che presenta sulla TV di Stato. Scommettiamo che questo qua ci fa la riforma delle pensioni in due giorni? Un milione di euro. Allora questo è un augurio a tutti e tutte noi, e lo so che stasera passiamo musica molto trash, ma ci fa davvero divertire. E quindi il pezzo dopo? Il pezzo dopo! Un buon ascolto a tutte e a tutti! Oh, oh, oh, oh, oh. sguardo che rompe il silenzio. Uno sguardo ha detto ciò che penso. Uno sguardo. Uno sguardo può durare un giorno, la partenza senza mai ritorno. Uno sguardo. Tutto ciò che so te lo dirò, e tutto ciò che non sai dire spiega il mare. Sento qualcosa di grande di questa città. La bugia che rompe ogni silenzio, la bugia che dico solo se non penso. Ti prego non fermarti proprio adesso, perché dopo non si può. Silenzio, non vale neanche una parola, né una sola, e quindi stop, dimentica, perché tutto il resto andrà da sé. Dimentica perché, dimentica per me. Una storia grande come il mondo, una storia lunga tutto il giorno. Una storia. Bugia di una parola sola, è la tua più affascinante storia. Una, la tua storia. Stop, dimentica, questo silenzio non vale neanche una parola, né una sola, e quindi stop, dimentica, perché tutto il resto andrà da sé. Dimentica per me. Stop, dimentica. Questo silenzio non vale neanche una parola, né una sola, e quindi stop, dimentica, perché tutto il resto andrà da sé. Dimentica perché, dimentica, e tutto ciò che so te lo dirò, e tutto ciò che non sai dire spiega il mare. Ti prego non fermarti proprio adesso, perché dopo non si può. Stop, dimentica, questo silenzio non vale neanche una parola, né una sola, e quindi stop, dimentica, perché tutto il resto andrà da sé. Baby, can't you see I'm calling, a guy like you should throw a warning. Dangerous, I'm flying. There's no escape, I can't fade. I need a hit, baby, get me in. You're dangerous, I'm dying. Signore e signori, ebbene sì, ci siamo. Allora, invece di, siccome l'atmosfera si è fatta toxic in questo paese, nel senso che sicuramente state fuori, ci dicono in chat, sicuramente la situazione politica attuale non è più serena e più rosea di quella che avevamo precedentemente, ma invece Che meraviglia, non era una frase, non aveva senso in italiano, no, aveva senso in italiano. E in realtà, quindi, l'atmosfera si è fatta toxic. C'è qualcuno che, si è, che chiede se abbiamo una sede. Sì, abbiamo una sede, ma l'indirizzo non lo posso dare in voce. Quindi se entri in chat e scrivi a Salute e Felicità, una rubrica tendenzialmente queer che va in onda tutte le domeniche dalle 21 alle 23 su transizionidifase.org, allora ci puoi chiedere anche qual è la nostra sede. Se vuoi venire poi magari ne riparliamo. Ma che significa tendenzialmente queer? Oh, attenzione. E allora, la tendenzialmente queer è una spiegazione abbastanza complessa, che non so se... La teoria queer, comunque, in maniera molto generale, è una teoria che tende a partire dalle... Scusate, c'è un comunque, la teoria queer... La potete... speriamo che vi è piaciuta questa spiegazione sintetica e chiara. E quindi vi consigliamo un libro che parla proprio di questa teoria, che è quello di Judith Butler, che si chiama Undoing Gender, e consigliamo di leggerlo in inglese perché in italiano è un po' così, ma in italiano lo potete trovare come La disfatta... Perché è una questione di lingua. È una questione di lingua. La potete trovare come La disfatta del genere, invece, in italiano, edita da una casa editrice che è quella che pubblica tutto quanto con la copertina in blu, ma adesso non mi viene in mente. È blu, è grigio? Qual è? E qual siete è? Tutte e due daltonici, state zitti. Ai, ai, ai. Il saggiatore, ci dico. Non è il saggiatore. Raffaele Cortina editore. È l'editore. Te dico di sì, te dico di sì, stai sereno. Vabbè, state calmi, poi ne parliamo. Io ho una domanda, insomma, ho una domanda per il nostro caro Alfredo. Sì, ci dica. Siamo tutte orecchie. Che cosa hai fatto ieri? Ieri? Ieri pomeriggio, dov'eri? Ieri pomeriggio ero a comporre un simpatico video. Wow. Wow, di safe sex, ma soprattutto fake sex. Aspetta, aspetta, safe key? Mamma mia, questa... Fake key? Cioè, sei su un'uscita di un aeroplano, safe no, exit? No, safe sex vuol dire sesso protetto, vuol dire sesso sicuro, soprattutto. Sesso protetto, quindi... Quindi? Io non lo conosco, non faccio parte del Kama Sutra così come l'hanno inventato questi eterosessuali. E allora va bene, cominciamo dall'inizio, però mamma mia come gli stanno queste maledette, ma perché le ho chiamate io? Comunque, il primo dicembre è la giornata internazionale per la lotta all'HIV-AIDS. Sostanzialmente l'HIV è una mente trasmissibile, appunto, e per l'appunto un virus che può scatenare spesso e volentieri, purtroppo, quella che è una brutta, brutta, brutta situazione che viene definita AIDS. E qualcuno si ricorderà una strana pubblicità di gente con un alone viola intorno negli anni Ottanta. Dovete ben sapere che in realtà questa malattia in realtà non è per nulla svanita, anche se non se ne parla più in questo paese. Che cosa succede? Che il primo dicembre, come vi dicevo prima, è la giornata internazionale per la lotta all'HIV, e quindi in questo paese non se ne parla, perché abbiamo di meglio di cui parlare. E allora che cosa succede? Io so bene, da lei sdraiata lì, stravaccata su quel divano, so bene che qualcuno sta organizzando qualcosina qui il primo dicembre. Scusate, c'è la catarrosi. sto a fumare il tabacco tuo qua, fa schifo. Io non fumo. Che succede? 2, 3, 4 dicembre un gruppo di giovani e giovanesse attiviste che si chiama orgogliosamente LGBTIQ, che sta per lesbiche, gay, bisex, trans, intersex e queer, insieme a Subwoofer. Cos'è Subwoofer, scusami? Che cos'è Subwoofer? È un gruppo di ometti, di orsi. Sì. E, che fanno? Che fanno? Fanno tante cose. E adesso stiamo facendo una cosa insieme un sacco bella. Wow, quale sarebbe questa è cosa? È il porn un sacco bello. To be alive. Born to be alive, quella viene le storie tese. Aspetta che ce l'ho. Born. Ce l'ho? No, ce l'hai, sì, è probabile. Scusate, scusate, scusate, un'interruzione. La casa editrice è Meltemi, non Raffaello Cortina. Oh, come Meltemi? Ma è che tipo un Moldeni, non c'era un cantautore che si era presentato? Meltemi. Meltemi. E allora va bene, dopo questo errore vi lasciamo a questo simpatico brano e ora arriviamo subito di nuovo da voi. Come scusa? Con la P. P. Con la B. No, con la P di Pulcino. Pulcino. Allora, quanto ci dicono dalla nostra simpatica regia, non si... Ah, lo so io perché non si sente, perché quella fricchettona che ha messo i brani prima non ha switchato dal canale A, eccolo qua, infatti, non ha switchato dal canale A al canale B, signore e signori, e quindi la canzone è chiaramente... ora non sento proprio nulla, dicono. Sì, lo sappiamo, scusatemi. Adesso quindi avete sentito un pochettino, ma vi facciamo sentire quella che è la colonna sonora di Salute e Felicità per Born to be Alive, 2, 3 e 4 dicembre a Roma. Buon ascolto a tutti e a tutte. Ce l'ho fatta. Allora, se sostituisci molto banalmente quella che è la B iniziale con una P, che cosa succede? Alive, la seconda che hai detto, cara mia. Che cosa succede, quindi? Che diventa? Porn to be alive. Oh, e che cos'è quindi Porn to be alive? Porn to be alive è un'iniziativa che ci sarà il 2, il 3, il 4 dicembre a Roma. E sarà un grande evento. Sì. Un grande evento, sarà musicale, ci saranno dibattiti, ci saranno video, performance e tanto altro ancora. E le location sono diverse, ma sicuramente da oggi fino a dicembre Transizione di Fase sarà un ottimo partner. Yeah, faremo anche la diretta dell'iniziativa che si svolgerà il 4, non mi ricordo bene dove, me lo sai dire? Il 4 dicembre al Volturno Occupato, yeah, vicino alla stazione Termini. Sarà un dibattito in cui inviteremo diverse persone che lavorano in quest'ambito e altre che ne fanno, diciamo, attivismo e un'attività politica, sia quindi cooperative, sia collettivi e diversi gruppi. Quindi sicuramente il 4 dicembre è una data molto importante che ci dobbiamo tenere in mente, e dal pomeriggio a seguire fino alla sera al Volturno Occupato, e sarà solo l'ultima delle tre grandi giornate. Che succederà prima? Me ne sono dimenticata. Oddio mio, c'è la fila a parlare al microfono. Questo mi piace. Salute e Felicità è molto contenta di questo. Che cosa succede, scusi? È partita IVA. Certo, è partita. Allora, da Mobella. Allora, il 2, sì? Ci sarà una serata. Sì. A Mucca Assassina. Sì, che cos'è Mucca Assassina? Perché magari ci ascoltano anche da Washington. Mucca Assassina, dai, è una serata che si organizza dove? Al Cube. In quale città, scusa? A Roma. Ah, in quale paese? In Italia. Ma sempre lo stesso di quello di prima, di Mari e Monti? Sì, sempre quello di Mari e Monti, sempre quello dell'anti... Sempre noi. Sempre noi, sempre vabbè. Noi. Che vabbè. Pizza. Convinti. Quelli che della pizza, sì, sempre. Quelli della... Ah, spaghetti, pizza e mandolino italiano baffineri, vai. E allora, ci sarà questo Mucca Assassina, come dire, una serata rivolta alle persone LGBTQI. Sì. Dove suoneranno i subwoofer di qui sopra. Sì. Mentre il 3, cosa? Ci sarà un'altra grande festa, yeah, a San Lorenzo, sempre a Roma, sempre in Italia, alla Locanda Atlantide, mm-hmm, dove potremo ballare e cantare in allegria, in diversi modi. 12 DJ. Quanti? No, aspetta, questa non la sapevo, scusa. 12 DJ. E che dobbiamo fare? sono tanti. Ingresso a 5 euro. Wow. E invece, scusami, mi dicevi del Volturno. Io non ho capito bene chi sono gli invitati. Mi pare che c'era. Noi con Transizione di Fase faremo la diretta. Quindi, cari e care, divertitevi a ascoltarci il 4 pomeriggio. Però, chiaramente. E magari ci potete istruire ulteriormente, erudire, lasciando da parte i livori, anche voi, lasciate da parte i liquori, che è finita sta bottiglia, se qualcuno ci vuole portare un'altra bottiglia, comunque parlaci un pochettino di questa giornata del 4. È finita anche la birra di Gabbo, e era l'ultima, sì, comunque quelle dell'altra volta per rispondere alle domande ma poste. Ma perché ti sei fissata con questa cosa di Gabbo? È che se c'è la birra io stavo in crisimo. Ah beh, va bene. Dai. E il 4, niente, il 4 cercheremo un po' di parlare di cose, di partire un po' da zero, nel senso che il tema dell'AIDS è un tema che molto spesso viene posto in secondo piano sia per emergenze sia per attualità, quindi se ne parla sempre di meno e sempre meno, appunto. Ormai sono passati, scusate, ma qua davanti c'è il teatrino. Io cerco di stare seria. Perché scrivono: ma esiste la birra Gabbo? Che non è, cioè, prova a coniugare le frasi che abbiano un senso logico. Gabbo's meno. Beer. Sì, sì. E, insomma, per varie concause, sì. Il tema dell'HIV adesso sta ritornando molto. Sta ritornando, uh-huh. E lo dicono diversi dati che appunto vedono le persone infette in aumento e anche diciamo una diminuzione delle persone che fanno il test. C'è che stata, cosa vuol dire fare il test? E ora ve lo diciamo, c'è stata, volevo partire da una pubblicità che l'anno scorso, proprio a Natale se non mi sbaglio, bazzicava, sì, sugli autobus di questa città, che diceva... contro l'HIV, tipo fai prevenzione, fai il test. Ora, sarebbe uh-huh. bello parlare un po' di che cosa significa prevenzione, ma più che altro mi veniva da ridere perché la prevenzione era il test. Allora, il test... cioè, come dire... Sì. Allora, il test è una cosa molto importante che va fatta e, come dire, io lo scriverei, ci andrei con una maglietta in giro, io il test l'ho fatto. Il test consiste in un prelevo di sangue che si può fare specifico sull'HIV o più in generale sulle malattie sessualmente trasmissibili. Quelle per le quali basta un prelievo del sangue, chiaramente, perché alcune malattie invece sono, sì, tamponi, altri sono orali, tamponi eccetera, eccetera, orali, anali comunque... e altro similare. Sì. Malattie sessualmente trasmissibili che diciamo hanno un'incidenza molto alta. E molto spesso le lasciamo scorrere quando invece possono creare dei seri problemi che possono essere arginati con non delle pratiche sessuali specifiche, ma con quella parola tanto bella che dicevo prima, che era la parola della prevenzione. Cioè, scusa? Prevenzione significa che se te, piccolo Metto, fai sesso con una donna o con un uomo o con chiunque altro, puoi usare uno strumento che purtroppo in Italia vendono a un prezzo non proprio accessibile, che si chiama preservativo, possibilmente non di scarsa qualità, che non lasci al sole, che non lo metti in macchina, che non lo tieni nel portafoglio, ma che lo usi... O vicino alle chiavi, magari. O vicino alle chiavi. È geniale, esatto. Insomma. Che ben custodito può proteggerti a te e al tuo partner, diciamo, da diverse malattie che invece ti potrebbero far passare diversi guai. I problemi sono tanti, milioni di milioni. Ma ci ha rotto Berlusconi. Dicevamo appunto, no, chiaramente, quindi insomma. Se volete essere informati, un altro argomento che chiaramente si parla all'interno di quella che è l'iniziativa di Porto Be Alive non è solo l'HIV di per sé, perché comunque alcune informazioni, per quanto complicate in questo paese, possono tuttora essere rintracciate. Ma un altro argomento comunque di cui si parlerà durante questa iniziativa, se non sbaglio, è anche quello relativo al fatto che l'HIV è stata utilizzata anche come metodo per creare uno stigma specifico su alcune persone oppure su rispetto ad altre, no? Beh, negli anni '80 era quella che si chiamava la peste gay. È quella che dopo i splendidi anni 70 del movimento di Stonewall nato in America e poi delle ripercussioni che comunque questo movimento ha avuto in tutto il mondo, ma dai movimenti per le strade agli ordini scientifici, pensiamo che si iniziava a pensare di togliere l'omosessualità dai manuali diagnostici, arriva questa cosiddetta peste gay che ha annientato fisicamente in maniera proprio reale, molti degli attivisti gay e transessuali in quegli anni. È una malattia che è stata additata sempre alle persone LGBT con, in maniera totalmente strumentale. Sappiamo benissimo che l'HIV si trasmette tramite tutti i tipi di rapporti e due tipi di contagio, cioè quello che viene chiamato orizzontale e quello verticale dato dalla gravidanza, e quello orizzontale trasmesso tramite contatto sanguigno o ematico nel caso delle tossicodipendenze. E lo scambio di sangue può avvenire sempre in diverse situazioni che non sono solo quelle omosessuali in questo specifico caso, per cui la prevenzione è un discorso che dovrebbe riguardare tutte e tutti. E invece fino adesso abbiamo visto fare un discorso relativo all'HIV, tutt'oggi si continua a fare un discorso relativo all'HIV, o forse non si fa manco più troppo, proprio relativo alle persone soprattutto gay e trans, soprattutto gay, perché di trans meno si parla in questo paese e meglio è, mi pare abbastanza chiaro. È l'ultima che ci ricordiamo probabilmente tutti e tutte, è Brenda del caso Marrazzo, ma nessuno parla di Brenda come una persona, ma si parla di Brenda come, che ne so, quella che comunque il trans, innanzitutto, perché come se la persona trans si definisse con il persona trans, e soprattutto quella relativa al caso Marrazzo, quindi una persona che ha come dire, non ha un'identità, viene data semplicemente in riferimento a un'altra persona coinvolta in scandali, e vabbè, e quindi ne sappiamo di tutto e di più proprio in questo paese. Ma io penso che adesso ci sentiamo una bella musichetta, che stiamo parlando un sacco. Vi lasciamo con una domanda: se due uomini e o un uomo e una donna usano un preservativo, due donne, per preservarsi fisicamente da le malattie sessualmente trasmissibili, che cosa usano? Buon ascolto a tutte e a tutti. Don't you know, talking about a revolution sounds. Don't you know, talking about a revolution, it sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution, it sounds. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's there. Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Oh, I said you better run, run, run. Talking about a revolution. It's finally the table are starting to turn. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds. And finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution. Talking about a revolution. walking out in the rain, and I am listening to the low moan of the dial tone again, and I am getting nowhere with you, and I can't let it go, and I can't get through. And the old woman behind the pink curtains and the closed door on the first floor, she's listening through the air shaft. I am writing along a swan song to see in both hands. Now use both hands. Oh, now don't close your eyes. Our body, I am drawing hard, we try. Ebbene sì, signore e signori, a volte anche qui le canzoni saltano e quindi è arrivato il momento di... Scusatevi, ci scusiamo particolarmente. Transizia de Vase ci chiamano dalla cumbia con furore. E quindi sì, c'è qualche problemino di cavi perché si sentono i tipi di rumori fastidiosi di sottofondo. Ebbene sì, no, non c'è caduta una birra tra i cavi, ci scusiamo. E quindi vi ricordiamo che potete venire su transizionedifase.org e entrare in chat. Come vi avevamo lasciato qualche minuto fa, si parlava di quelli che possono essere dei dispositivi di prevenzione dal contagio di malattie sessualmente trasmissibili per quanto riguarda le donne. Insomma, in questo paese paghiamo un preservativo circa 95 centesimi. Ma se pensate invece quelli che sono i costi dei dispositivi di prevenzione del contagio e le malattie sessualmente trasmissibili, anche MST per le donne, i prezzi li dovete quintuplicare, sempre perché... No, duplicare, dai, almeno duplicare, non fa quella... almeno duplicare, io sono convinto di questo. E quindi va bene, no, io li compro... bella... vabbè, poi ti racconto una storiella un po' lunga. E in ogni caso, quindi abbiamo la nostra responsabile che ci parlerà adesso di questo. La rispodeghete domenica sera alle 10:30. Domenica sera alle 10:30 come minimo. Lei è la mia conduttrice Cococò, come vi dicevo prima, appunto, perché è una conduttrice a contratto di collaborazione e costituzionalmente coordinato, continuativa, nel senso che quando la voglio la mando via. Funziona così. La mia co-conduttrice adesso. Tu sei a che? A progetto. Hai un progetto? Dipende, esponici il progetto e poi lo vediamo. Insomma, l'altra... Il progetto che abbiamo adesso di sicuro è Port to Be Alive, sì, per riniziare a parlare 3, 4, di HIV e di AIDS. E prima parlavamo un po' di dati relativi al numero di infezioni e di persone che fanno il test oggi, perlomeno in Italia, e sicuramente c'è stato un abbassamento di guardia, c'è stato diciamo un calo di quel terrore che è stato diffuso negli anni Ottanta, probabilmente perché adesso ci sono dei farmaci che allungano la vita, probabilmente perché adesso non sono diminuiti le persone che hanno il virus conclamato, quindi si sta prendendo molto sotto gamba questa questione. Come sappiamo bene, il nostro paese, il sistema sanitario nazionale, fanno molte cose tranne un concetto base, che è quello della prevenzione, come lo vediamo spesso negli ambiti della salute mentale. Quindi conviene curarsi che prevenire una malattia, e molto spesso queste cose le paghiamo sulla nostra pelle. Vi abbiamo lasciato prima di questi due fantastici pezzi che hanno passato i nostri DJ. Wow. Di Talking About Revolution and quella di Annie DiFranco. No, com'è che si dice? Talking About Revolution. Sì, sì. Dimmi qualcosa a proposito di... Yeah, di? Chiamo? Sì. Cioè, quando è a casa è metti qualcosa a proposito di... A proposito di, yeah. About. Sì. About. E prima di quei due pezzi vi abbiamo lasciato con questa domanda, cioè un uomo e una donna o due uomini usano il preservativo per, diciamo, proteggersi dalle malattie sessualmente trasmissibili, che adesso per semplicità chiameremo MTS. Come sigaretta? Body band, abbiamo una nomenclatura anglosassone o italiana. Yeah. Comunque sia, usano il preservativo, ce ne sono tanti, ce ne sono diversi, molti sono scadenti. Se fate sesso anale non usate quei preservativi blandi che si spezzano, perché insomma i buchini sono diversi e c'è un preservativo per ogni buchino. Assolutamente. Questo sì, me lo insegni tu. Tu chi, scusami, eh? Fai calma. Tu. Vai. Le cose si complicano. Dicevi cose più intelligenti, eri arrivata a un punto interessante. Le cose si complicano se parliamo di sesso fra due donne. Sì, sì, sì. Si complicano perché pare che il sesso nel mondo venga idealizzato. Anche le donne. Sì, lo fanno anche le donne. Il sesso non è solo penetrazione. Quella parola che a me non mi piace proprio per niente, sì. Mi fa schifo e monnezza, sì. Soprattutto non insomma per gli amici e le amiche eterosessuali, che per carità di Dio, però sì. Perché... Ma stiamo aggiungendo termini, ci spieghi chi è Dio, scusa. No, stai buono, se no mi perdo. Punto fondamentale, va bene, dai. Se no mi perdo, no, sì. non è una questione di non ce l'ho con la penetrazione in no. sé per sé. Ah. È che la parola penetrazione viene usata un po' per tutto e sto cazzo de cazzo sta sempre un po' in giro un po' troppo. Ma a parte questo, sì. A parte questo, torniamo alla salute, torniamo, sì, alle donne soprattutto, che se ne parla sempre molto poco. Mm-hmm. E si dice che l'HIV non sia un pericolo per chi ha rapporti lesbici, ma questo non è proprio vero, soprattutto se l'HIV si iscrive in tutte quelle malattie che vengono appunto chiamate malattie sessualmente trasmissibili. Sono più di 25 e sicuramente molte di noi lo conoscono, dalla vaginite ai condilomi, alla scabbia, all'epatite, e alla gonorrea, all'herpes e tanto altro ancora. E spesso non stiamo attente su delle piccole pratiche che ci potrebbero aiutare a vivere la nostra sessualità con più piacere e più tranquillità. Mm-hmm. Qual è il problema? Dica. Tu dove compri il preservativo, bello mio? Io? Io lo compro in farmacia, oppure in tante librerie LGBT che in giro per l'Italia hanno deciso di frapporsi fra quello che è un mercato istituzionale del sistema sanitario nazionale, di acquistare acquistare comunque anche loro a loro volta dei confezioni speciali di preservativi in giro per il mondo. Bella per te, io non lo compro da nessuna parte, bello mio. Se due donne vogliono fare sesso e lo vogliono fare in maniera protetta, oltre a lavarsi le mani, che è una cosa importante, e casomai anche tagliarsi le unghie, possibilmente. E utilizzare dei guanti, senza alcun dubbio. Ai guanti mo ci arriviamo, però non è che io entro in farmacia e dico: salve, io vorrei avere un rapporto sessuale con un'altra donna, in che maniera potrei proteggermi? Vedi l'altro che sviene completamente. È una cosa molto simpatica, è un esercizio di liberazione quotidiana. Andate in farmacia con acqua e zucchero, perché probabilmente di fronte sviene. Gli dite: bello mio, tieni in mano questo bicchiere, eccetera, eccetera. Fatte una sauna. E sesso protetto fra due donne. Allora, come dicevamo, sicuramente il lavarsi le mani o usare dei guanti di lattice possono aiutare, sia in caso di... io qua c'ho un problema con l'italiano, perché... in generale. Ma vaffanculo, tutte e due. Perché molti direbbero: in caso di penetrazione vaginale o anale. Penetrazione con le dita. Se uso le dita non è penetrazione. E che cos'è? Non so, ci sto pensando un sacco di tempo. Però io non voglio usare la parola penetrazione se penso a due donne dove una masturba l'altra con l'uso delle dita. Certamente. Non saluto è un pene. Mamma e papà che mi stanno ascoltando comunque. Salve signora. E vabbè, stiamo facendo una trasmissione. Voglio, ma stavo scherzando comunque. Okay. Poi se mi sta ascoltando, ciao, mi chiama. Ciao mamma. Ciao mamma e papà Frodo. Ciao. E comunque sia... dove stavamo? Lasciamo sto problema. Che è tuo, è solamente tuo. No, penso che sia. Spero sia della maggior parte delle lesbiche. Uh-huh. E anche delle donne, in teoria. Vabbè, insomma, di tutte quelle che, di tutti quelli che pensano in un mondo diverso. Ma dicevamo: guanti di lattice possono aiutare. C'è un'altra cosa che si chiama dental dam, o anche diga dentale, che viene definito un foglio quadrato di lattice, usato di norma dai dentisti. Volete sapere che cos'è? Erdomo, pacche! Praticamente tu, mentre fai sesso con la tua ragazza, mentre... Sì, No, la carta forno. Erdomopa. Come si chiama quell'industria dei missili aeronautici che avevamo sgamato pure che ingegneria della Sapienza? La Lenia. Mentre la Lenia de merda studia i sistemi desta ceppa lippa pandà sulla luna in sì. 4D dello Sblart, nessuno studia come due donne che vogliono avere un rapporto sessuale tramite cunnilingus o di trazione, che è la parola che io userò da adesso in poi, debbano usare Erdomopak. Sì. Cioè, mentre lui dicono aspetta tesoro, prendo il preservativo, che ormai è una cosa abbastanza usuale, tu alla tua compagna dici aspetta amore, pio Erdomopak, no l'ho finito perché c'ho incartato le patate, e questo è greve, raga, è greve. Dovremmo smetterla di incartare le patate probabilmente, piuttosto che cambiare questo paese, vista la lentezza, voglio dire. È greve perché insomma è così. Dopodiché degli strumenti di prevenzione ci sono, proviamo a praticarli e ad utilizzarli, e questo vale per rapporti lesbici, rapporti omosessuali ed etero, sì. Insomma di qualsiasi natura essi siano, e possono essere di più disparati. Per noi femminucce, sì. E anche per i maschietti, ma forse più per noi, l'uso di giocattoli, per esempio, che è una cosa molto divertente, e insomma è abbastanza divertente, ad esempio mettere un preservativo sopra il vostro giocattolo o lavarlo accuratamente fra un rapporto e un altro, soprattutto quando si passa dal vaginale all'anale, sicuramente potrebbe essere una cosa che ci aiuta a tenere la nostra patata pulita, splendida e non infettiva. Oddio, che devo mettere splendida, splendente. No, voglio patata in salute. Mi dirò una canzone, si chiama patata in salute. In salute. In ogni caso, vi metto un piccolo stacchetto di una canzone che vi ricorderà, e poi torniamo subito alle nostre brave cantantesse che ci hanno dilettato. Cioè, ci dicono Erdomopak pure sul cunnilingus, capito? Ho capito, che te devo dire, Mimì? Che te devo fare, amore? Ma posso mettere un preservativo sulla lingua? No. Che schifo, no, io quei cosi ci faccio i palloncini. Domani dalle ore 17 alle ore 18 potete trovare la co-conduttrice a Via del Corso che farà palloncini. No, con i preservativi. No, non li sprecherei mai. Mamma mia, comunque, stacchetto e poi un brano che sicuramente conoscerete. Un buon ascolto a tutte e a tutti. Allora, just beat it, cioè sconfiggiamolo, ce la possiamo fare, basta che ci stiamo solo un po' attenti per la peppa. Torniamo alle nostre simpatiche cantantesse, lei è Janis Joplin, e questo brano, come si chiama, signori? Ah, signori, tenete Vucan! Come si chiama questo brano qua? Mercedes Benz. Un buon ascolto a tutte e a tutti. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it. L'amore mi fa molto, molto ridere. E mai, io dico mai, ci crederò. L'amore quello vero non esiste più. Dopo all'improvviso arrivi tu. Se guardo te, io sono bruciata. L'amore c'è, è dentro di me. Amo te, sono bugiarda, bugiarda, lo so. Il mondo ci potrà forse anche credere, ma io dico no. Allora, mi auguro che questa prima puntata, che si volge un pochettino al termine, sono le 22:46 di questa domenica gelida con finestra aperta, morte, Vi stia piacendo. Chiaramente è un po' delirante, perché vabbè, è la prima volta che ho le mie conduttrici a contratto di collaborazione continuata, ma manco troppo. E allora salutiamo anche Lady Gaga, che ha un computer a 32 bit e non a 64 bit, è una domanda che ci viene fatta così, non so bene perché, ho risposto a caso. E quindi è una puntata un po' delirante, e ci sta, però ci auguriamo che vi stia piacendo. Insomma, volevamo un attimo riassumere quello che era il discorso sulla prevenzione in generale, e quindi sulla prevenzione tra due donne, che è un argomento di cui penso che davvero in poco pochi ne sanno in questo paese. E poi lasciamo un altro pochettino di musica. La puntata sta per finire. Ma facciamola durare di più, no? Eh? Ma te non vai al lavoro domani mattina? No, se ci portano la birra, io non c'ho problemi. Vabbè, Gabbo, vai, birra Gabbo al tavolo 4, vada. Aspetta, mi sto accendendo la sigaretta. No, ma come mi sto accendendo la sigaretta? Oddio mio, che mostruosità. Vabbè, riassumere è un po' difficile, anche perché non abbiamo neanche iniziato a parlare. Sicuramente vi invitiamo il 4 dicembre al Volturno Occupato dalle 17.30 in questo Porn to be Alive, in questo dibattito che ci sarà, dove parleremo di malattie sessualmente trasmissibili e di prevenzione, che sia lesbica, gay, transessuale, etero, di qualsiasi altra voglia, forma sia. Sì. E sicuramente vi incitiamo e vi mi viene in lingua dei segni, ma non mi viene in italiano. Che cos'è la lingua dei segni, scusami? Cioè? La lingua dei segni è la lingua che stronzi. Dovremmo pensare a una web radio in LIS, eh? Sarebbe una cosa molto divertente. Guarda, quando vuoi ti puoi mettere a tradurre tutte le stronzate che dicono nelle trasmissioni, tipo la mia. Quando no, vuoi, niente, la lingua dei segni è la lingua delle persone sorde, ma non ne parleremo oggi, ne parleremo sicuramente domenica prossima. E niente, potete venire il 4 dicembre. Dopodiché, mi raccomando, usate il cappuccetto, il guanto, il preservativo, lavatevi, fatevi il test. Lavatevi, sembri mia nonna, mettiti la giacchetta. Immagino un cuore. Ciao, sciarpetta. No, veramente, non pensiamo che dei piccoli gesti siano banali o rovinino l'atmosfera, come si suol dire. Voglio dire. Se l'atmosfera si rovina con un pezzetto di plastica, state messi male. C'è un problema da un'altra parte, potete contattare un numero, ve lo diamo dopo. Ci sono psicologhe a raffica per voi. Che aspettano di trovare lavoro, ma non apriamo. Prevenire è meglio che curare, la salute mentale i manicomi ce l'hanno insegnato, e per cui fatelo in maniera protetta, fatelo in maniera variegata, divertitevi. Il Kama Sutra è passato, ne potete scrivere dei nuovi, usate quello che vi pare, fatelo con chi vi pare, ma fatelo protetto. Fatelo protetto. E quindi protetto, vi lasciamo un altro simpatico brano. Vi ricordiamo il blog sul quale potete trovare ulteriori informazioni su Porn to be Alive, che è I am Porn to be Alive, basta lo scrivete su Google e trovate sicuramente il riferimento. Oppure andare sul sito www.orgogliosamente. No, www. HTTP non ha c'è ragione. HTTP due punti / orgogliosamente lgbtiq.blogspot.com. A breve cambieremo piattaforma, ma intanto ci trovate su Blogspot. Assolutamente sì. Allora un buono ascolto, un buono compleanno a tutti e a tutti. Ma se stiamo a salutare mo, no? No, ma di che? Oh, se te vuoi restare qui a dormire, guarda che tranquilla, eh. Oh, bella mia. A bella ciccia, a un buon ascolto a tutti e a tutti. Ah, ma me la metti bella ciccia? Bella ciccia, bacio con la mia. Tu sei la più bella. Vabbè, poi te la metto, stai serena. Bacio. Tonda è piena. La fretta del cuore è già una novità che dietro un giornale sta. Qua bisogna scapocciare, eh? Opinioni e il male del giorno è pochi chilometri a sud del mio ritorno, del mio buongiorno. Ma in volo a planare dentro il peggiore motel di questa carrettera, di questa vita balera. E un volo a planare per essere inchiodati qui, crocifissi al muro. Ma come ricordare? Una con tutte stelle della vita. Non sono una signora, ma una per cui la

E allora, ebbene sì, dopo splendido, splendente, Is This It, così è, allora è arrivato il momento di farvi sentire un altro brano che ci piace tanto, cari e care. E purtroppo è uno degli ultimi brani dell'orario ufficiale di Salute e Felicità, poi vedremo se andare avanti alla grande, però insomma mi pare che le nostre facce sono già abbastanza consumate. E quindi un invito che può essere esteso anche a quando siete nel vostro letto col vostro compagno, con la vostra compagna. L'importante o anche è che col vostro gatto o il vostro cane. Assolutamente sì. L'importante è che voi stessi siate i vostri DJ. Allora, un buon ascolto a tutti e a tutte. Ma li stiamo a salutare? No, un buon ascolto, no, buonanotte. Vabbè, che ne e so, quindi capisco. Hai dovuto rovinare il momento serio della trasmissione. Scusa, cucciolo di cuore. Amore mio. Comunque, fatevela via bene, è stato va quart. E un saluto a Stripitis che ci sta ascoltando. Yeah. E allora, con l'augurio che voi siate i vostri DJ e le vostre DJ della vostra vita e delle vostre attività in generale. Prima di salutarvi, mandiamo ancora qualche altro pezzo, ma non potete capire, è passato il carattrezzi, si è caricato due macchine, mommo. No, riga, ma come? Cioè, ma io non ho visto questa cosa. C'è stato un casino della Madonna, l'hai sentito? No, cioè no. Io ho sentito che c'era il panico, però sto qua, che è perché fare? Si sono presi due macchine, tipo, c'era la punto bianca, ma la cosa peggiore è che gli hanno staccato tutto il pezzo dietro. Ma no! E sono cascate tutte scatole. Sono cascate le scatole sì. Dalla punto bianca. Un bordello dei libri dentro, ma vi immaginate il coglione, la cogliona che ha parcheggiato qua sotto su nell'autobus, pensate, in doppia fila di fronte ai secchioni. Vabbè, noi ridiamo delle sventure altrui, chissà chi è. In ogni caso salutiamo Stripidi, se il cane più kir della specie canina non più ce kir. Lo dimenticheremo mai. E allora, signore e signori, qua la situazione del genere. Oh Vicky, ci vediamo domani, bella Vicky. E allora noi non li stiamo salutando, perché li saluti e poi mi dici oh, metti altri due pezzi, sorella. Queste cose, quindi vi facciamo ascoltare un altro paio di brani. Un buon ascolto a tutti e a tutte. La situazione è degenerata. E le 23 sta andando via la macchina, no. Comunque guarda i libri che stanno per terra. Vada, che libri strani che allora, stanno per terra. Il messaggio delle riviste è arrivato. Un buon ascolto a tutte e a tutti. No, non è non finita, è finita. Sta buono, Gigi. Sta buono, state buone. Ci siamo sbagliati, in verità non erano punto bianco, era punto scusate. Blu. Scusate. In verità non era il carro attrezzi, ma era semplicemente il camion della monnezza, cavolo. Però non era una punta, non era una punto. Ma signori, era una punta. Una punta. Inzaghi, era Inzaghi, era Inzaghi. Sicuro era e allora, Inzaghi. Un buon ascolto a tutte e a tutti. Everywhere you turn is heartache, it's everywhere that you go. Garbo and Monroe, Dietrich and DiMaggio, Marlon Brando, Jimmy Dean, Grace Kelly, Harlow Jean, picture of a beauty queen, Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, Dan alcohol, Martin, drugs, overdrive, noise, neon lights, party people, revolution, rave is king, alcohol, drugs, overdrive, noise, neon lights, party people, can you feel it, rave is king, alcohol, drugs, neon lights, can you feel it? Noise, neon lights, party people, revolution, rave is king. Alcohol, drugs, overdrive, noise, neon lights, party people, can you feel it? Rave is king. Ooh. up. There's some people that you just can't trust. Some people talk way too much. Take my advice and listen up. Don't be a fool like the rest of us. Now listen up. Ebbene sì, è arrivato il momento della graffa, grappa, no graffa, grappa su salute e felicità. Lie about it to your face when they're caught. There's some people that you just can't trust. Some people just talk too much. Take my advice and listen up. Don't be a fool like the rest of us. Now listen up. E TDF con My Friends Dario passa alla grappa e Frodo al gorgonzola e dai così. Prohibited. You need a driver and a trainer. a super mega car. Drives too fast. Drives too flash. Drives too fast. Too fast. Too fast. Too flash. Too flash. Doesn't care about chiaramente colpo di pistola era uno dei brani che vi volevamo far sentire questa sera, ma è importante ricordarvi una cosa: transizionedifase.org, una cosa che vi dico sempre ad inizio della mia trasmissione, è un contenitore, un'idea generale pronta e vogliosa di avere i vostri contributi di tutte e di tutti. Se quindi vi è piaciuta almeno in parte questa trasmissione, se almeno vi è piaciuta almeno in parte l'idea di come questa trasmissione vi è concepita, potete scrivere a info@transizionedifase.org oppure visitare il blog frodo.noblogs.org per avere ulteriori informazioni. Se invece volete proporre appunto un vostro vero e proprio progetto, dovete scrivere a info@transizionedifase.org. Siamo abbastanza, insomma, abbastanza semplici all'utilizzo, anche se la nostra simpatica amica in questo momento sta sclerando per far partire un brano. E vi ricordiamo che il nostro sito è sempre transizionedifase.org, che ci fa sempre piacere che ci sia o che non ci sia una trasmissione in diretta se voi bazzicate nella vostra chat. I prossimi appuntamenti nella settimana sono i consueti e li potete trovare nella pagina trasmissioni del nostro sito. E in ogni caso ci tengo a ricordarvi quella che è Radio Noise, che va in onda tutti i lunedì dalle 21.30 alle 23.30, una trasmissione che va in onda su Transizioni di Fase tutti i lunedì da ben 2 anni, e questo è un piacere, ma il nostro palinsesto si è ingrandito. È un'altra trasmissione che spacca davvero, è quella di Indie Media Calabria. È la mitica Candy che ha curato insieme a un altro po' di attivisti e un altro po' di transitori quella che è stata la diretta fatta ieri alla manifestazione che si è tenuta a Crotone, relativa a quella che è la fine del commissariamento rifiuti per la regione Calabria, che dura, come dire, il commissariamento rifiuti che dura da oltre 10 anni, insomma stiamo parlando di 14. Nonostante i chat non vogliano che la trasmissione finisca, anche noi abbiamo una vita, è una coinquilina che domani, che fra poco arriva alla stazione, quindi in realtà devo andarla a prendere fra poco, quindi ve lo sto dicendo. Io però so bene che uno dei brani preferiti di una delle co-conduttrici è questo qui. No, non mangiare le patatine al microfono, però, per favore. Stavo dando un po' di contegno. Sono buonissime. Facciamo... Gigi, ma quando ci inviti a cena? Martis. O mitica Martis. E quindi, insomma, salutiamo Martis, che è appena entrata in chat anche lei. Ciao, Martis! E quindi un altro dei tanti link che vi diamo, oltre a italy.indimedia.org, roma.indimedia.org, eccetera eccetera, frodoporn.it, I am porn to be alive, e anche quello di ondarossa.it, ma pure io sono ioscorro.it, io sono ioscorro.it, insomma sentitevi il podcast e potrete ascoltarvi. Scusate, ma non era una radio? Era la musica e basta. Ecco, infatti era lei che gli piace sto pezzo e vuole che lo mettiamo dall'inizio della trasmissione. Fra poco vi metterò la sigla finale, appena la smettono di, appena finisce tutto quanto il cibo che io ho sulla mia scrivania secondo me se ne andranno, e quindi fra poco riusciremo a fare a concludere questa trasmissione. Allora, io volevo dire una cosa. Saluto Giuseppina da Caldanissetta, che mi ammare. No, mi dispiace perché avrei voluto mettere tanti altri bei pezzi musicali, ma non li ho portati. Non li ho trovati. Non li ho trovati dove? È stato Bill Gates. E il tempo è sempre troppo poco? Assolutamente, quindi... puoi restare qui altre due ore, stai dicendo, perché in chat sarebbero particolarmente contenti. No, vorrei solo il mio PC. Allora, ci chiedono in chat, io sono scorro, si fa? Sì, si farà. Gigi, trema! Devi tremare. A settembre l'idea sta crescendo, io sono io scorro, è un convegno che è stato fatto l'anno scorso e anche due anni fa all'interno della facoltà di psicologia, si parla di identità gay, lesbiche e trans in un contesto accademico. Le patatine Greek e croc. Ecco, in un contesto accademico, quest'anno diciamo l'idea è cresciuta e quindi io sono io scorro.it per avere a breve ulteriori informazioni. Non c'è niente da fare qua, freme. Fatela qua la prossima salute e felicità, dagli, la prossima salute e felicità probabilmente si farà a casa di Jiu-Jitsu. Bella, sta più vicino a casa nostra, ci piace. Sì, è un po' più vicino anche a casa mia che la faccio dentro casa, comunque. Bella Gigi, bella, Bugatini Gigi. Voglio io. Bugatini, no quelli de Ostia però, Ajo. No vabbè, io... Sì, scusate, ma la musica... Insomma, la musica... Eccola, va bene, gliela mettiamo. Allora, io sono io scorro. Ciao. Ecco. Ciao. No, nel senso che sono due pezzi che uno dopo l'altro non c'entrano a cippalippa. Infatti non li metteremo tutti e due, ne metteremo uno, così no, questa qua se ne va. No, racconteremo un'altra barzelletta, intanto ci sentiamo la musica, vai Frodo. Vado a cannone, buon ascolto a tutte e a tutti. Non vi fate male. Ma come non vi fate male? Ah, vai, era general generico. Buon ascolto. Mi date piano. Ma mettetevi la canottierina, io diciamo, scusate. No, mettete la sciarpetta, no, usate il preservativo, i guanti in lattice monouso, il Domopack, il lubrificante. Cosa. Basta che scopate! Ecco, così magari... Beh, detto un po' più carino, amatevi. Mamma, oddio mio, buon ascolto a tutti e a tutte. E mo sentite Amatevi, che canzone va messo, Amatevi. Suicide. Others deserve to die. E con ben mezz'ora di ritardo ci avviviamo piano piano leggio alla conclusione di questa trasmissione, di questa puntata, scusatemi, frodo.roblox.org per trovare a breve i podcast anche di questa puntata qui. C'è poco da fare, io ho iniziato con il Sound of Rum, ma penso che non li abbiate ascoltato a dovere, perché, non lo so, cercate Sound of Room su YouTube. Perché non lo so, a volte succedono delle cose strane nel mondo e secondo me loro davvero spaccano, underground del sud-est londinese. E allora arriva subito un buon ascolto a tutti e a tutte in sottofondo, i Postal Service. Buon ascolto. Mo parte, state calmi, mo parte. I had to tell him, get out, you bold colors, you vile vipers, your brightness blinds. The tightness climbs from my abdomen up to my throat, but then it sinks back again. Now we're rarely remote, but apparently we're separate. That's why we're standing apart. I got my hand on my heart, and I'm watching sand turn to glass. I'm looking through time, looking past time. 'Cause me, I ask time questions, but the answers evade me. That's why I'm evoking the storms that name me. Stroking the thorns that made me red thumbed. Well, now the petals have fallen. My head's numbed by the onslaughts of autumn. 'Cause me, I think things, and then I wish I'd never thought them. But I know that's hardly important. 'Cause your fire melts my fabric, and I felt your magic at night. And I was led back to the light when my feet tied. Dragged, hesitant. See, I mistook reputation for relevance. And I mistook education for elegance. Well, now I see it. Everything is sediment. Everything stacked belly to back like commuters on trains with computers for brains. They get their money, pay their rent, they buy their food with a change. But me, I booze till the days become bruised, but remain always true to my name. I'm turning gravel to grain as I unravel that straggler's chain. See, I walk through the rain with my heart full of flame, trying to make peace with my pain. But we don't find the sign. Don't you know what these people are? We're just not looking inside. I'm bound like Prometheus, horrible within. Breathe out when I'm breathing, but the horror of the things I keep finally seeking. Don't you find the sign. Don't you know what these people are? We're just not looking inside. I'm bound like Prometheus, horrible within. Breathe out when I'm breathing, but the horror of the things I keep finally seeking. I drag it all out over hot coals. I rake up the restless soul. I don't hold what can't be controlled. But do the rest even know how we sit in cold silence, staring at ourselves with violence in our glare? Can you bear to discover your heart with no cover when it speaks straight and it speaks true? I creep through the foggy, stale air of a bedroom at dusk. I'm seeking out someone or something I can trust. I don't know, I slouch low, grip a drink in hand, lament, building my sanctuary on sinking sand. It ain't right, but what's morals? What's worth? What's worse? Hatred I feel, or the thirst I can't quench? Look, I drink deep, sink into pink sleep. Dream a dream, live a lie. I watch my life drifting by from a distance, talking to myself but never listening. Despise the position I've been given, know it all. I'm crippled by the bitter eyes, stare lying down off. And it leaks on another pair of jeans. Facing myself in the shadows, I scream out the misery. I hear only the rain hitting the pavement. It's the damp dark basement of a squalor-filled romance. I smell the death on my fingertips, clutch tight the literature, because my best friends are dead men. I never met them when they lived, I only know them through script. I read avidly, thinking on a time where greed damaged me, thinking on how the weed savaged the capacities of my mind to elucidate. I'm wrapped by this guilt, my middle name should be shame. I walk through this rain with a heart full of flame. Wrapped by this guilt, my middle name should be shame. I walk through this rain, my hot heart full of flames. I'm trying to make peace with this pain. But look, we don't invite the signs though. We can't choose the words they speak to us. So next time you're stressed, you need to look inside and let yourself be unbound like Prometheus. Cause that oracle within, it breathes out when we breathe in. Although I know firsthand, full well, the horror of the things we keep out will seep in. We don't find the signs, but you know what this brings to us. Just not look inside, I'm unbound like Prometheus. Horrible within, breathe out when I'm breathing. But the horror of the things that keep out, they seep in. Look inside, you be unbound like Prometheus. Oracle within, reach out when I breathe in. But the horror of the things I keep out, it seeps in, it seeps in, it seeps in, it seeps in, it seeps in, it seeps in, it seeps in, it seeps in. The horror, the horror, the horror, the horror, horror of the things I keep out, it seeps in. Horror of the things I keep out, it seeps in. Horror of the things I keep out, it seeps in. The horror, the horror, the horror, the horror. Don't invite the signs. Don't you know what this creates? The world was just not looking inside. I'm bound like Prometheus. Oracle within, reach out when I'm breathing. All the horror of the things sleeping out the key. And I don't invite the signs. Don't you know what this creates? The world was just not looking inside. I'm bound like Prometheus. Oracle within, reach out when I'm breathing. All the horror of the things I keep out. They see in, they see in. They seep in, they seep in. They seep in, they seep in. war with the inside and a rage fist. A witness of a slit wrist as we move into 92. Still in a room without a few. You got to know, you got to know. And when I say go, go, go, amp up and amplify, defy. I'm a brother with a furious mind. Action must be taken. We don't need the key, we'll break it. Something must be done about vengeance or rage and I'm done. So rip the mic, rip the stage, rip the system. I was born to rage against the fist in your face, in a place, and I'm about to stop clearly. Know your enemy. Know your enemy. Allora, la notizia è dell'ultima ora, partono 10 kg d'oro, ma a Bruxelles arrivano solo i pesi da palestra. Vi è mai capitato di perdervi 10 kg d'oro che partivano da Arezzo e arrivano a Bruxelles a te? No, però mi piacerebbe tanto trovarli. Secondo me vai da Arezzo a Bruxelles, può essere che li trovi, secondo me. Chi è stato? È stato Draghi. Secondo me li ha presi così perché non voleva essere da meno, dai, diciamo solo questo a quest'ora. Può essere, può essere. D'altronde oh, qua se abbiamo il discorso di Silvio trascritto per chi non l'avesse capito. Di chi? Di Silvio. Silvio chi? Non entrerò mai in politica, scendo in campo, il paese che amo. Per un nuovo miracolo italiano. Un nuovo che? L'Italia. Non a fucking American Dream. Fucking American Dream? No, altro che Dream. Si stanno a piare i sordi da mo. Che dice? Che dice? L'Italia, l'Italia come... L'Italia col cortello. Beh. Aspetta, qua intanto chiedono, ma possiamo fare richieste? Da cosa? Forse. A chi? Stiamo chiudendo, ragazzi. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Uomini e donne, bambini e bambine. Assolutamente, è arrivata. Comunque, no, no, il pezzo dei ladri, dei cosi. Dei cosi chi? Basta ladri di Stato. La rivoluzione liberare il polo delle libertà, il decreto Biondi, vendono le mie TV. Biondi? Biondi. Mario Biondi, il cantante quello con la voce super calda. Mario Venuti. No, ma come deve ora? Devo mettere un pezzo di Mario Venuti. Scalfaro è comunista. Come? Scalfaro era? Comunista. Come Giorgio Gabber era comunista. Secondo mai me... detto che sono l'unto del signore. Mai detto che sono comunista. Sei no, l'unto e basta. Sei. Te lo possiamo dire. Sei l'unto e basta. D'Alema è comunista. Pure. D'Alema è comunista. È comunista. L'amico Giorgio. George W. Bush. Chi? Ma George Clooney è comunista pure lui, quello con la casa sul lago di Como abusiva. Proporrò per il ruolo di Capo. Ah, vabbè, quello turisti della democrazia. Vabbè, abbiamo capito. Vabbè, allora libertà, sì. Era Travaglio, non era. Ah, altro. Era Travaglio, era un Travaglio abbondante. E allora altro brano richiestoci e poi vi giuriamo che ce ne andiamo a dormire perché siamo sfattarelli. Aspetta, Sic Transit, ecco. Gloria e Mundi, mi ecco. Dimetto. Ecco, mi dimetta. Com'è? Bush assolutamente comunista. Pure? Mimì, ma che cazzo? Aspetta, Psico V, ma si è dimesso? Io non sto a capire. Non si è capito. Vabbè. Non si è dimesso. Tra Mari e Monti forse si è dimesso. Vabbè, un buon ascolto. Comunque dicono, no, non andate a dormire, entra in chat invece di chattare qua. Ecco. Vai su www.transizionedifase.org, clicca su chat. Di sì a tutto quello che ti chiedono. No, non tutto. Vuoi bloccare i componenti? No. No. Vuoi accedere a questa chat? Sì. Sì. Vuoi l'acqua pubblica? Sì. Non me fa entrare. Vuoi il nucleare? Sì. No! No. No. Oddio mio. Vedi, ci si casca facile chi referendum. E infatti regà. Qua ti hanno bloccato, Mimì, ci dispiace, non la fanno entrare. No. Chiudi il tuo browser e tua sorella. È una rimpatriata comunque, abbiamo capito. Chiudi il tuo browser, Mimì, e rinizia da capo. Ecco, è facilissimo, vi giuro. Che sbraitata, stiamo chiudendo. Va bene, no. Allora va bene, intanto un altro pezzo e poi davvero, regà, siamo stancucci. Family Day. Cioè? Che fate, ragazze? Mi toccate il culo? Qua vabbè, si è perso qualunque barlume. Ma che paese di merda. Ma tu dove sei? Cioè, dalla trasmissione, dove... Questa, vabbè, vieni in questa metà campo. Psico V è ubriaca, però intanto... Ma che ubriaca? Fare questa canzone, vi prego. Ecco, gliela mettiamo, un buon ascolto. All fucking American Dreams. Oddio mio, signore e signori. Sì, sì, ci vediamo domenica prossima. Un'ultima richiesta per noi, ci chiedono. Cioè, abbiamo 750 cc di grappa, un buon ascolto a tutte e a tutti. Io ancora non ho assaggiata. All your teenage idols have left the building. Haven't you seen the signs of the time? Everybody's leaving, so they're looking on the other side. Haven't you seen the signs of the time? Allora, niente, cioè, allora, stiamo aspettando due cose. La prima, una richiesta di, della simpatica Mimi, che ci sta ascoltando anche lei direttamente da Pechino. E da Pechino, guarda che è tornato, scimmia masseria. A Largo Atelese a Pechino comunque. E quindi non ce ne possiamo andare fino a quando Mimi non gli viene... No. E c'è... Beijing, c'hai Beijing, ragione, non... di merda. Ecco, a parte che voglio dire tra l'altro che, cioè, vabbè, insomma, ci sono tante cose. Vabbè, lei ha richiesto Sweet Home Alabama. E non se ne parla proprio, quindi prova a strizzarti il cervello. Oh, la vita frattempo. È una guerra delle radicchie nel cemento. Non se ne parla proprio. La vita è una guerra, non lo so, ce l'abbiamo, però non lo so, ma vediamo. In ogni caso salutiamo Radio Noise che va in onda domani dalle 21.30 alle 23.30, tutti i lunedì da due anni su transizionedifase.org. C'è Radio Noise. Come? Ladro Noise, è la versione francese, Radio Noise. E invece vi ricordo che tanti altri appuntamenti si susseguono nella settimana di transizione di fase, tra cui anche quello del mercoledì, scusatemi, sera, che va in onda dall'XM24 di Bologna. In diretta ci sono sempre dibattiti e musica live, molto interessante. Salutiamo anche Ignifugo che ci dà sempre una mano tecnica. E se la colla pure lei, Lotus Flower, Mischini. Oh, Radiohead, Lotus Flower. Può essere che ce le abbiamo, ma potrebbe essere una cattiva idea. Professional Distortion, però. Professional Distortion, ma come vi viene in mente? In ogni caso, va bene. Abbiamo Lotus Flower, e va bene. Un buon ascolto a tutti e a tutte. Questi in sottofondo sono i Postal Service. Ma quindi siamo di buonanotte? Sony Postal Service, such great. No, non è Mimi, you are. Buon ascolto a tutte e a tutti. Versace l'UDC. Thank you. Speriamo che ci sentiate, stiamo davvero provando a lasciarvi andare a dormire assoporendovi e speriamo che l'Onin Kyoto degli Air com'è che fa? Eccola, inizi ad appropinquarvi un pochettino verso le ore adeguate. Un buon ascolto a tutte e a tutti. E buonanotte. Questa è Forbidden Colors di Ryuichi Sakamoto. Ci stiamo provando in tutti i modi. Senti, Radio Noise, parliamone. noi ci abbiamo una vita, domani ci abbiamo una casa, faremo i precari come tutti i giorni, eh? Poi sono d'accordo con Jijitsu che vuole fare un fondo cassa per la birra. Dai, sì, facciamolo, però noi dobbiamo andare a dormire la per fare la birra volta, domani mattina alle 6. Per fare la birra soprattutto. Tocca dormire almeno 5-6 ore, eh? Forbidden Colors, Ryuichi Sakamoto. Se questo è un brano che avete sempre sentito, ma mai saputo chi era che l'aveva fatto, Ryuichi Sakamoto. Buon ascolto a tutte e a tutti. E buonanotte. Ci riprova, eh? Fino alla fine. Sfuma in sottofondo Ryuichi Sakamoto, manca davvero poco alla fine di questa trasmissione che va avanti da ben 3 ore e 6 minuti. Appicciala, appicciala, amore mio. È acceso? Come è acceso? Non ti sentono, ti sentono da qua. È andata avanti così tanto la trasmissione, su questa, come dire, canzone, non lo so, ballata, composizione, mi suggerivano sulle onde. Volevamo un po' darvi la buonanotte e dirvi amatevi, ma con il preservativo. Bravissimo. Sono preparato, un buon ascolto a tutti e a tutte. Fate safe sex sempre. facce era Vitalik. After non vuoi mettere niente, non c'è niente degli altri, maggiori rivoluzione gli area. Ci scusiamo per il disservizio. Ci scusiamo di nuovo per il disservizio. E abbiamo un altro messaggio da darvi quasi in chiusura della trasmissione. Viva gli gnappi e le gnappe tutta la vita. E questo è Michel Petrucciani. Potete ascoltare scrivendo Michel Petrucciani su YouTube. Su YouTube o su Google o su quello che vi pare. Un buon ascolto a tutti e a tutte. Thank you. E adesso, a grande richiesta, Mary Lou Williams, I Made You Love Paris. Questa è Salute e Felicità e va in onda su transizionedifase.org. Jiu-Jitsu e Pissigri, un nuovo amore. Ebbene sì, signore e signori, anche questa puntata di Salute e Felicità si avvicina verso la sua conclusione e noi non sappiamo che cos'altro dire, diciamocelo chiaramente. Ci abbiamo altre cose da dire? Dai, aspetta. Allora, io ho una co-conduttrice problematica, perché al microfono vi dice buonanotte e poi spengo il microfono e fa: certo che comunque Mary Lou Williams toccherebbe metterla. E tu fai: ma chi cazzo è Mary Lou Williams a mezzanotte e 20? Ma se ne voleva andare a dormire? E quindi adesso ci spieghi per chi era Mary Lou Williams, che faceva navi. No, dice quello che un po' che ti pare, insomma. Dacci un augurio, perché siamo quasi davvero in chiusura, quasi. Allora, non so chi fosse Mary Lou Williams, so solo che è una pianista veramente fantastica. L'altra co-conduttrice intanto canta Mina, che canta Alex Britti, che canta se stesso, che canta tutti noi, insomma, cantiamo. Però sentiva sempre al mare. Frodo è ubriaco, cercava una certa Rachel ma non l'abbiamo trovata, quindi vi promettiamo che la prossima settimana vi metteremo Rachel. Rachel Ferrell, va bene, ok. Vi consiglio di andare a ascoltare Rachel Ferrell, che è una grande artista, jazz, vocalist, una di quelle che la voce se la magna e se la ricaga, come si dice in gergo. Geco, hai detto Michael Jackson, vogliamo mettere un brano di Michael Jackson? E allora adesso vi faremo ascoltare. No? Che c'ho? Alex Britti nell'hard disk, ma sei impazzita? Da che c'ho? Cosa c'ho? Alex Britti? Mina. Una versione di Mina di una canzone di Alex Britti, ma siete completamente fuori di testa proprio. Dopo Mary Lou Williams potremmo provare invece... attenzione, eccolo qua. Ebbene sì, signore e signori, è capitato quindi uno degli ultimi bravi di questa long standing Salute e Felicità. È lui, un artista che, vabbè, uno dei tanti artisti di quelli che dici, ma vabbè, come hai fatto? Non lo sappiamo. Un buon ascolto a tutti e a tutte. E allora, nonostante tuttora ci continuano ad arrivare altre richieste, vi facciamo ascoltare. No, quel microfono credo che purtroppo si sia definitivamente spento ore e ore e ore fa. E quindi Siguros magari nella prossima domenica, in cui avremo altri ospiti. Non oh, a canna! Oh, a me mi piacciono i Siguros. A una delle nostre conduttrici piacciono i Siguros, e quindi dopo questo brano vi facciamo sentire una bella situazione avvenuta. E quindi vi auguriamo una buonanotte. Invitiamo Lady Gaga, se non le piace particolarmente questa canzone, andare a dormire. Questo è Giovanni Allevi e questo brano si chiama Go With The Flow, e poi la sigla finale. Buon ascolto a tutte e a tutti. E quindi niente, è arrivato davvero il momento di salutarci, e sono le 00:32. È stato davvero un piacere avere queste co-conduttrici. conduttrici a Salute e Felicità, che adesso vi salutano e vanno a prendersi un pezzettino di freddo sulla Prenestina and so on. Sempre meglio di qua dentro. No, è stato un piacere essere con voi, grazie a Frodo che ci ha ospitati, ospitate, anzi. Bacio e buonanotte veramente. Ciao, Salute e Felicità. Ciao. Ciao, Psicolaicibe. Psilocibe. Ciao, Psilocibe. Trasmissione Fiume. Ciao, Radio Noia. Radio Noia. Ciao, Radio Noia. Plurale Maiestratis. Maiestratis. E quindi va bene, la situazione è degenerata, adesso proveremo a riprenderci. Salute e felicità a tutti e a tutte, questa è la consueta sigla dei Mume. Questo brano si chiama Green Grass of Tunnel, quello prima si chiamava Go with the Flow di Giovanni Allevi. Un buon ascolto a tutte e a tutte. E ci sentiamo settimana prossima dalle 21 alle 23 su transizionedifase.org. Vi ricordo brevemente gli appuntamenti di domani con Radio Noise, di mercoledì con l'XM24, dall'XM24. E quelle che sono in realtà le varie trasmissioni le potete trovare sul transizionedifase.org, nella pagina specifica del nostro palinsesto. Un buon ascolto a tutti e a tutte. Have a nice night. And so, dear listeners, good night, sleep well, dream sweet, and see you on next Sunday. Salute e felicità dalle 21 alle 23, tutte le domeniche su transizionedifase.org. Un buon ascolto a tutti e a tutte.